concettuale. Artista concettuale sarniano. Sì, diciamo che io ho fatto tutto, ho messo in piedi tutto questo ambaradam solo esclusivamente per far arrivare al programma di Pasquini il momento più basso della sua esistenza, cioè quella di dover parlare della mia mostra a Bologna. In latino. In latino. Qua mi scatta un gingolino, se permettete. Prego. Cioè, un attimo che lo trovo, ma sì, era già lì. Fai con calma che dopo 4 minuti di sigla iniziale ci possiamo mettere. Ascoltiamo la sigla. Ah, fantastico. No, scusami, me l'ha proprio strappato dal mixer. Vabbè, allora intrattenetevi un attimino che io mi devo eclissare, sì. da brava ti devi eclissare? Dove vai? E vado un attimo nel mio account di... Ci sto andando io, arriva. Ah, stai facendo tu? Scusa, andate tutti nei vostri account, no, io non ce l'ho l'account. Tanto come c'è vai? Zino, se c'è Zino è... Va bene, allora prendo qualità. Il microfono e tengo io in ballo questa trasmissione qui con voi. Che ti sei preparato stasera? Assolutamente nulla, perché ho detto, invece di stare a preparare come tutte le volte il mio minuto, che adesso... è sempre un minutino e mezzino, eh? Sì, e beh, per forza. Mezzino. Ci sono arrivata mentre lo dicevo. Stai diventando arguta anche tu. Sì, perché sono empatica, trasmettimi l'arguzia. Osmosi. Osmoticami. Non vi capisco più, che cosa state dicendo? Ma tu che hai fatto? Il professionale, geometri, quindi vuoi che... Io ho fatto, sì, ho purtroppo fatto al liceo artistico. Ma hai fatto architettura o accademia? Ho fatto accademia, no, dico al biennio anche. Certo, già lo sapevi. Certo, avevo 4 in matematica, secondo te potevo continuare a fare matematica? Mi sembra ragionevole. Cozzo comunque c'è un accademico, quindi insomma, voglio dire, una trasmissione di un certo livello. Scusami, anch'io, se permetti. Anche tu sei accademico. Allora sono io, quello che ha fatto il liceo classico, il più ignorante di tutti. Non hai fatto nient'altro dopo quello? Io assolutamente. Hai fatto solo l'arte concettuale? Ho fatto, ma manco quella, perché mi è riuscita abbastanza male come no, cosa. Comunque... Però, come dico sempre ai miei amici, finché Pasquini pubblica foto dei suoi quadri c'è speranza artistica per tutti. Ma infatti le tue applicazioni di Lego sono fenomenali. Ti ringrazio. E cos'è quella cosa con tutte quelle palline colorate? Quella la puoi scoprire solo se vieni domani. È un appuntamento? Certo, galante. Vediamo se 333 180 94 94 se Fuga per Arte è geloso. Io lo so. A proposito di Fuga per Arte, però ne parliamo nella seconda parte della puntata. Sì, anche perché alle 9:30 appuntamento col cinese che devo andare a mangiare, quindi purtroppo ruberò a Coxo solo pochi minuti. È il cinese del nome? Sì, è quello. È come il nome di un cinese. È come il nome di un cinese. Sì, sì, sì. Anzi, me lo potresti mandare come jingle per iniziare la chiacchierata. Lo vado a trovare, allora intanto intrattieniti, che sì, lo cerco. Mi intrattengo. Forse ce l'ho io qua, però forse è in OGG, per cui quella allora dobbiamo macchinetta anche... lì non... no, ma la mia priorità te lo posso fare è scaricarti. Io. Come il nome di un cinese. È vero, no, lo posso fare. È molto meglio. Però ci manca quella meravigliosa musica di sottofondo. Me lo fai tu il sottofondo? Faccio io, arriviamo al 3. Aspettate che posso farlo. 1, 2, 3. Il nome di un cinese. Perfetto. La rubrica di Zino. Perfetto, direi che è fenomenale. Possiamo cambiare la sigla per le prossime nome settimane. Di un cinese. Eccolo. Eccolo. Bastava qua. Riscriverlo su Google Translate. Bene, dopo aver perso 2 minuti sul come il nome di un cinese, parliamo invece. Questa è in ungherese invece. È in cinese, no? No, in ungherese. Cioè, adesso. La mia priorità è scaricarti il documento. Quel documento lì è importantissimo, perciò esatto. Tu taciti e scarica. Tacita anche le applicazioni dal tacitando. Tuo iPad. Mm-hmm. E concentriamoci su di noi. Allora, sì, diamo due. Facciamo proprio Radio Verità, Radio sì. Informazione. Diamo due informazioni su quella che è la mostra di domani. La 167esima puntata di Coxo Spaziale ha come super mega galattico ospite unico e solo Zino, che grazie. Ci parlerà di. Della mostra che farò domani e sono qui per questa marchettona. E la mostra come si chiama? Il nome di un cinese. Si chiama così? No. Volevo chiamarla così, ma però non aveva quella pill che mi sembrava adeguato, anche perché avrei dovuto mettere tanti cinesi appesi alle pareti e non ne avevo a disposizione. Li facevi con Lego? Non ce la facevo con i tempi. Invece si chiamerà, per dargli un tono anche un attimino più elevato, Civis Pacem Parabellum. Che vuol dire questa cosa? Sì, vediamo se avete studiato. Vuol dire come il nome di un cinese. Bellum guerra. Puoi tradurlo in ungherese se vuoi. Io chiedo aiuto agli ospiti silenti. Io lo so perché l'ho letto. No, allora tu niente, andato... ospiti silenti, siete pronti? Chi schiaccia il microfono per primo? Troppo facile. Uno dice troppo facile lo e tu altro curatore. Ospite. Lo vuoi dire? No. Ah. Ok. Vabbè, allora lo dico io: civis pacem, parabellum. Aspetta, civile, pace. Se vuoi. Civis, ah, se vuoi. Era se la pronuncia, pacem, era la pronuncia. Lo so, questa è la pronuncia del sud che un po' sugli accenti traballa. E, se vuoi la pace, prepara la guerra. E quindi, mi sembra molto in linea col contemporaneo. Esatto, ed è una mostra basata sulla la realizzazione di armi fatte con i mattoncini Lego. È un'idea che viene fuori dalla voglia di analizzare un po' quello che è il gioco all'interno della guerra. Perché questo? Perché mi sono imbattuto tempo fa nei siti internet dei produttori di armi e ho scoperto che hanno delle recensioni sulle loro armi che sono spettacolari. Sembra che stanno vendendo la lavatrice alla domestica. Gente che scrive: ah, questo fucile che spara 30 colpi al secondo lo vendiamo anche nero e rosa, oppure questo fucile d'assalto, se lo comprate vi regaliamo la comoda borsa imbottita per con dentro due mine antiuomo. Quindi è fenomenale questa cosa, quindi mi è venuta l'idea di accostare un po' quella che è l'arma al proprio significato invece giocoso che ne vogliono dare anche i produttori di armi. Facendo una ricerca e vedendo che queste armi sono molto diffuse, come anche i giochi, ad esempio chi non ha mai regalato una pistola d'acqua a un bambino o una pistola che spara proiettili di gomma piuma, per noi è diventata un po' una seconda anima quella di giocare a fare la guerra, no? Da bambini tutti quanti abbiamo giocato anche tu quando facevi parte dei Guerrieri della Notte, no? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra, mi ricordo che c'eri anche tu lì. Bravo. A Coney Island. E quindi ho voluto dare una forma concreta a questa idea organizzando questa mostra che si terrà alla Galleria B4 in Vicolo Vinazzetti, in centro storico a Bologna. Ah, non si legge all'inglese? Before. Ma prima di chiamarsi Before, come si chiamava? Non te lo so dire, ma domani mi informerò. Ha trovato il file, sennò non può mica parlare. Ho trovato il file ed è sulla chiavetta. Sto aspettando di. Va bene, allora, perché caricando l'olly per poi. C'ho un momento radiofonico. Quindi abbiamo svelato i nostri Cox ascoltatori, che la 107esima puttata vede come ospite. 167esima. Cosa avevo detto? 107esima. Vede come ospite extragalattico e coxico Zino, ed è dedicata a Drupi. Arte contemporanea. No, era 167 era Nicola. Giorni. Nicola. Invece abbiamo anche una carrambata. Sì. Perché uno dei nostri ospiti silenti, sì, e vi lascio indovinare quale, è un esperto di balistica. Dico bene? Avvicinate il microfono. Ha detto che era silente, scusa. Allora, però, dove lo mettiamo sto microfono? È stato un attimo poco silente. Faccio così con la testa. Fai così con la testa. E poi basta, non vogliamo sviluppare così un attimo di dialogo? Non lo so, io sto cercando di capire qual era la puntata dei due minuti di Lolly della volta scorsa. Era la 39. Com'era la 39? La 40 sta sto giro serve. Vabbè, perché lo ricordi, sia sicura, brava. Ma non vogliamo sviluppare un dialogo tra l'artista contemporaneo concettuale che tratta queste cose rialzo il volume, tu Stefano stai zitto che sennò sei troppo vicino. Mm-hmm. Andiamo, chiacchieriamo. Innanzitutto, visto e considerato che stavamo trattando del tema, esattamente cos'è la balistica? Penso che tutti i nostri radioascoltatori si facciano questa domanda adesso. Con una L sola. Con una L sola, sì. Beh, tutto quello che ha a che fare con le armi da sparo. Quindi si parla di calibri, si parla di polveri, si parla di gittate, si parla di armi automatiche. Scusi, può sfogliare un po' più lentamente, grazie. Tutto quello che fa boom c'è un perché, e quindi quando vediamo in quelle serie televisive, no? La squadra balistica. No, cioè quando vai a cercare ad esempio il graffio sull'unghia estratrice di una pistola automatica che lascia l'impronta indelebile sul bossolo, o recuperi un'ogiva, quindi la parte del proiettile che ha ucciso una persona, dei segni passando nella canna, ecco, tutto quello che studia insomma è balistica. Questo scambio c'è stato? È stato, c'è stato. Ti senti arricchito? Aggiungerei una cosa: il parabellum è tutto quello che oggi, ad esempio, l'arma più usata nel mondo come con delle polizie è una parte della Beretta, è la 92, e quello è un calibro 9 Parabellum, quindi c'è il 9 corto che ha meno polvere, più piccolo il bossolo, il 9 Parabellum. Zino annuisce guardando con attenzione. No, perché io ho tentato di documentarmi anche su queste cose, però ci capisco veramente molto poco, quindi cioè mi fa piacere che qualcuno mi quindi possa... Quindi per Sinecinivis Parabellum... Parabellum, abbiamo anche l'esperto di balistica che per il proseguo potrà consigliarti. Questa è stata una grande carambata offerta dal Coxo. Esatto. Riabbasso i volume, facciamo rientrare... Ok, grazie, puoi ritornare di là, Pasquini. Cosa sì. succede? Il tuo lolly richiamalo, richiamalo. Di qua. Di là, no... E questi momenti di vuoto radiofonico molto sono bene, molto bene. Sono no, vabbè, la allora, radice li del riempio Cox, finendo arrivando alla fine della mia marchetta, perché appunto volevo invitare tutti quanti i radioascoltatori di questo programma che allora, domani l'inaugurazione della mostra allora, sarà alle ore 18 alle ore e 18. Quindi vi aspetto tutti quanti per un bicchiere in la compagnia. Susi abita un po' lontano. Raio, magari dai, Raio, vieni alla galleria B4, tanto io e Fedra non ci siamo, perché io sono Adria e Fedra chissà dove sarà. 333 180 94 94. Ma poi stai controllando che qualcuno stia messaggiando. Non ci scrive nessuno. Raio chissà dov'è stasera. Raio sarà in mezzo alla neve a Cepagatti. Pensavo che fosse tornato invece. No, e chissà invece se il nostro amico... E chissà se Fuga per Arte mi sta chiedendo di nuovo di sposarlo. No. Chi è questo Fuga per Arte? Come non lo mi conosci? Piace per niente. No. Come? Ma pensavo foste amici. No, non conosco uno che si chiama Fuga per Arte. Vuol dire che non sei un Coxo ascoltatore, perché lui è la colonna portante del nostro allora, pubblico comunicante. Allora, apro una parentesi. Io come Coxo ascoltatore a 350 km di distanza da qui dico che non funziona lo streaming di questa radio. E ma quindi, come non funziona? Finché stavo a Riccione lo sentivo. Aspetta, quando sono tornato in Abruzzo non lo sento. Perché più. Tu hai il Mac. E io ho il Mac. E col Mac non funziona. Devi comprare qualcosa. Un PC. Mentre a Riccione avevi il PC e col PC lo ascoltavi. Ma voi fate qualcosa. No, ti devi scaricare l'app e te lo ascolti al telefono. Comunque Gifo dice Zino merda. Firmato Gifo da Bassano del Grappa. Grande, finalmente hai visto. Abbiamo un incontro ravvicinato con Bassano del Grappa. Dal tuo profilo Facebook? Sì. Non riusciamo a raddrizzarlo questo ragazzo. No. Infatti adesso gli rispondo vaffanculo tu e lo stanzone. Ma siamo non stiamo neanche coxando le parolacce stasera. Com'è con tutto questo lassismo? Ho detto vaffanculo perché vaffanculo è una parolaccia. No. Se tu la metti nel dialetto di Bassano del Grappa può anche essere un complimento quando c'è un matrimonio. Questo la sposa si vaffanculo. Esatto. Io sono veneta, esatto. Posso certificarlo. Vedi, meno male che c'è qualcuno che onestà professionale mi dà retta da questo punto di vista. Ah beh, ascoltarti così piacevole, soprattutto quando dici la bella Fedra. Grazie a te, caro. Noi continuiamo così, Stefano, se non intervieni tu a dire qualcosa. Io aspetta che adesso la bella Fedra. Quelli di Bassano del Grappa vengono a Bologna a rubare le nostre donne. Tiui de Bassano del Grappa en Bologna stelas niain virinoin. Questo è in Esperanto. Sì. In Esperanto. Anche se in realtà per omaggiare il nostro caro professore. Io lo vorrei in hawaiano, visto che no, c'è. Ma c'è di molto meglio, c'è. Ragazzi, però io voglio dire, tra 10 minuti buon i nostri ospiti se ne dovranno andare. Buon del Grappa, firmo de Feminis. Bello. Firmo de Feminis. Bella questa, bella. Non male. Salutiamo Lorenzo Sarno, che non ci starà ascoltando, perché essendo che... E perché lo salutiamo? Così, perché abbiamo appena parlato in latino, almeno... Questo ha parlato in latino. E, dunque, di che cosa c'è? Cioè, abbiamo finito di installare? Sì. No, non ho finito di installare. Domani. Quante devo... opere ci sono? 5. Allora, in totale sono 15. Ah, hai detto un numero a caso. Io certo. No, era una citazione colta da Fellini quando gli chiedono. Gira un po' il microfono verso Zino. Sì, ma lui ha la voce molto più ampia della mia. Tocco delle corde. Tocchi delle corde che io non toccherò mai. Tocco il cuore delle persone. Esatto. Se vuoi tocco anche qualcos'altro. Però da buonino. Abbiamo appena debellato quella pratica. Faccia al muro, esatto. Ma come, proprio quando vengo io. E non mi ricordo più che cosa stavo dicendo. Che era una citazione felliniana. Ah, però no, fra l'altro io oggi sono andato in radio, in un'altra radio, in una radio vera, in una radio finta, sì, perché una radio web. Anzi, vi devo dire tre cose. Ma allora, non puoi dirla nella mezz'ora. La devo dire quando c'è anche Zino. Sono stato in questa radio web che si chiama, non mi ricordo più, il programma si chiama Rock ed è la radio dell'Istituto Cavazza. È una brutta parola. Radio si chiama, non mi ricordo più il nome della radio, è strana sta cosa. Radio Cavazza. Fatto sta che ti chiameranno perché vogliono anche te ospite, Fedra. Perché? Sì. Ma perché c'eri in radio? Io naturalmente ho menzionato anche a loro che stasera venivi qui. Ma perché chi sono? Cosa fanno? Perché gli interessa di sentire me? È un programma culturale. Che per si occupa vogliono dei programmi delle altre fai. Radio? Ah, perché gli ho detto che fai performance, sei un artista, fai faccio contaminazioni. Okay. Esatto. La seconda cosa invece che riguarda tutte e due è questo programma un po' strano. Abbiamo di una scambio, cosa che c'è comune. Zio. Di scambio artistico che si chiama Change col punto esclamativo. Mi piace. Ed è una cosa organizzata da una giovine artista chiamata Elena Amersky, che funziona così: ogni 90 giorni un artista fa uno scambio con un'opera con un altro. Avevi già provato a parlarmene di questa cosa con un altro artista. E quando questo succede suona il telefono. Abbiamo una telefonata in diretta. Ah, grande. È arrivato un messaggino. Mettila in viva voce. Vi leggo il messaggino intanto che mi ha attaccato. Invece qui è arrivato: quel Zino farà carriera, ne sono sicuro. Bravo Zino e bravo il curatore. Grazie. E invece a me personalmente dal nostro solito gifo ci scrive: è mica colpa mia se a Bologna non vi tira. Non so di che cosa stia parlando, francamente. Non lo so, ma non è un mio problema visto che io non vivo a Bologna, quindi. È tutto un problema mio, dunque. Molto bene. Invece io a questo punto volevo annunciare una cosa prima. Allora, che io ti volevo dire: se torni la settimana prossima, devi portare un'opera da scambiare. Forse, però non qui. Perché scambierete, il primo di voi due che mi porta un'opera lo scambierà con un Daniela Spagnamusso, che è un artista. Ma io voglio un'opera di Zino. Tu vuoi un'opera di Zino, sì, allora quindi tu me la porti giovedì e io la porto la volta dopo. Io la prendo e dopo tu sarai il mio prossimo scambio. Ma rincontro anche Zino o solo la sua opera? Questo è bisogno. Lui ti porta l'opera, io poi ti mando un messaggino e ci incontriamo. Allora ti do il numero: 333 180 94 94. Perfetto. Io invece volevo dire che per la primavera sto preparando un nuovo format per Coxo Spaziale che invece delle favole di Fedro saranno le favole per Fedra. Racconterò. Che romanticone. Aspetta che mi scatta un altro. Sì. Creatività generica. Ecco qui, perfetto. E quindi questo sarà poi un contributo che andrà avanti nel corso della primavera coxiana. Meraviglioso, meraviglioso. Quindi continueremo a sentire la tua dolce e morbida voce. La mia. Anche se lo sai che in due o tre puntate fa è scattato un momento. Vogliamo uova sode. Non so, sicuro? Sì. Aspetta. Volumus. Vogliamo uova sode. Vuoi dirlo in latino? Volumus e ova nuces. Ah, però aggiunge nuces, che avevo aggiunto ma mi ha completamente ignorato. Vogliamo uova sode e noci. Ah, ecco adesso. E tu lo sai che meglio. Cos'è uova sode e noci? Oddio. È una carta del mercato in fiera. È un brano? No, è un programma di Riccardo Lolli. Meraviglia. Come no? Taglio olio, grande. Lui ha trovato la citazione. Sì, ha trovato la citazione. Meraviglioso. Fantastico. Ma tu sei troppo colto per i miei gusti. Scoprire l'ospite silente in tutte le sue declinazioni, penso che neanche un enciclopedista. È impossibile. Ma comunque. comunque io volevo dire, mi sono distratta, lo volevo dire, ah sì, ecco, ecco, alla puntata della Befana, sì, la nostra esperta di Befane, ah, si è sentita profondamente risentita da Storia del parcheggio, esatto, dalla battuta del mi parcheggio, mi faccio tatuare una donna che parcheggia, certo, profondamente. Latine dixeris quod nimium capiuntur. Ovvero come si dice, sei troppo colto in latino? Come si dice? Ha fatto anche il punto di domanda, ma che brava! No, devo dire che sta migliorando notevolmente. Sì, sì, la pratica che gli fai fare questa traduttrice settimana. Dove l'avete trovata? Cioè, assoldare delle persone così competenti è anche difficile. Insomma, cosa vogliamo dire? Perché lei dice che è riprovato che dalle statistiche che le donne fanno meno incidenti, che hanno una guida più sicura. Forse non ha seguito tutto il discorso che era stato fatto, perché era un discorso sulla banalità e quindi è molto banale dover statuare una cosa del genere, perché era una banalità che si dice senza fondamento. Beh, vero. Ok, allora infatti mi pareva strano che tu avessi mancato di tatto nei confronti del nostro genere. Ecco. Detto questo, è vero anche che noi stavamo pompando forte sulla critica agli approcci degli uomini single nelle chat per single, e quindi eravamo anche distratte. Sarà distratta anche l'esperta delle Befane. Forse sì, ma comunque adesso la prossima volta cercherò di rimediare con un minuto di cordoglio alla cara amica. Va bene, ti manderò tutti i dati adesso, voglio porvi l'attenzione all'orario, perché sono perché i nostri ultimi 30 secondi insieme. Sì, dobbiamo andare via, quindi io le parole sono importanti. Verba sunt magna. Verba sunt magna. Magna. Importante. Magna. C'è un ospite che ride in fondo. Che bello avere della gente. Dino, è stato bellissimo. Guarda, averti è qui. Stato bellissimo vederti finalmente, quindi sono contento. Ci dobbiamo fare cosa. Delle foto. Cara. È stato un po' meno bello passare tutto questo tempo vicino a Pasquini, ma comunque. Comunque c'è una grande novità. Da adesso che è ritornato, di tanto in tanto ci scambiamo. Anch'io meno sono male. Dall'altra allora, parte. La prossima volta, allora. Confermo. Ogni tanto faccio la regia. Ecco. Va bene, ma qui il palinsesto, la scaletta del programma è variabile e quindi è finito. È finito. Vi invito tutti quanti domani all'inaugurazione della mostra Per un bicchiere insieme, Vicolo Vinazzetti. Vinazzetti, bicchiere, c'è sta. Ma vedi? Dov'è? Dietro alle due torri. Traverso i San Vitale. Via dell'Unità. Parallela di San Vitale. E su Vicolo Vinazzetti, dove andremo tutti domani alle 18 per vedere la mostra personale di Zino e vedere anche lui che gran bel gnocco che è, insieme al vino. Guarda, ti vedevo lì. Donna, ci sentiamo tra poco. Artistico. Ciao a tutti. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Quando chiami il call center della 360 gradi. Cox spaziale. Ha già salutato, come facciamo? Noi andiamo, lo togliamo. Possiamo baciarci in diretta? Sì. Ah no, allora. Ma che bel momento di radiofonia! È bellissimo, aspetta che metto anche questo. Prima vado a baciare Fede. Le parole sono importanti. Ciao, cara. Ok, perso qua, alziamo qualche volume. Ciao. È bellissimo questo silenziosissimo. Aspetta che magari metto un brano da qua, chi lo sa? Come faccio a fare la regia? Allora, senza ciao la regia? Zino. Ciao Petra, bacio. Senti, ma vuoi che abbassare quello e magari quello cosa? No, così sentiamo una canzone intanto. No. Aspetta che bacio i miei amici, voi continuate. Non lo so, sai che non le ho mai preso. Io intanto vado avanti con vengo a vedere la stessa. L'angolo della menzione. E appena torna Stefano, noi partiremo con le menzioni. Intanto comincio io e dico che sabato 21 alle 18 Elia fa tappa a MAD. La monografica di Elia, artista, continua a camminare e questa volta fa tappa nella sede istituzionale più adatta alla città di Adria. Stai parlando il MAD. Di me? Il MAD. Esatto, che è il Museo d'Arte d'Adria e del Delta, presso la Fondazione Bocchi in corso Vittorio Emanuele. Esatto. E adesso mettiamo lo stacchetto. Olè. Ah, ma siamo già partiti con l'angolo della menzione, giusto? E adesso c'è quella del nostro caro amico Zino, che io la salterei un attimo perché tanto l'abbiamo parlato sin qui, e poi sì, ti sfido a pronunciare il latino, e quindi tutti domani in vicolo Vinazzetti a conoscere Zino e a vedere le sue meravigliose opere colorate. Si vis pacem parabellum, a cura di Luca Ciancabilla, con la collaborazione, che era il nostro ospite silente, Raffaele 4, uno dei nostri ospiti alla galleria B4, alla galleria ore 18. E adesso quella che mi preme tantissimo e che mi ha creato momenti di documento. Sì, perché martedì 24 alle ore 21 Roberta Giallo, e sappiamo di chi sto parlando, presenta L'oscurità di Guillaume, ecco come si dice, c'è uno studente che si chiama così. Io c'ho un amico al Bravo Caffè. La cantautrice d'adozione bolognese presenta il suo album solista organizzando un concerto che sarà memorabile, ricco di musicisti eccezionali, sorprese ed ospiti che saranno presentati a poco e l'ingresso è libero. È libero ed è un grande regalo. Sì, certo. E un altro grande regalo che la 167esima puntata del Coxo fa ai Coxo ascoltatori è la voce di Roberta Giallo in telefonica. Ah, oh, Roberta! Ciao! Sei stata bravissima, guarda, hai illustrato tutto. L'unica cosa è il concerto inizia alle 9:30, però fanno bene ad arrivare alle 9, almeno si sistemano, si accomodano. Effettivamente cena, io leggo 9:30 anch'io. Ah, ok. Ma va bene, ci siamo distratti. No, ma è meglio arrivare almeno mezz'ora prima, dai. Sì, anche perché è poi meglio, perché quella sera sarà, si prevede veramente tanto afflusso. E poi infatti replicherò sempre al Bravo Caffè l'1 febbraio. Anzi, vi invito, se non potete il 24, sappiate che c'è l'1 febbraio. No, io invece non posso né il 24 né l'1 febbraio. Tu lo sai, tu non puoi mai, mannaggia, sei un uomo troppo impegnato. Ma perché il martedì io sono a Torino, però questo martedì il 24 invece sono a Firenze, pensa un po'. Fammi organizzare un concerto a Torino. Sì, esatto. Chiamami con i tuoi studenti, sai anche l'università. Assolutamente, ma assolutamente, dobbiamo organizzarlo. Non sto scherzando. Ma non neanch'io, non sto scherzando. Ma sai che io sono amico di alcuni miei ex studenti stanno diventando dei cantanti famosissimi. Ah, pensavo dei fan di Roberta Giallo. Anche dei fans di Roberta Giallo. E secondo me, infatti, potresti già fare. Organizziamo un concerto assieme ai Twi. Sì, e ci vengo. Dai, organizziamo. Poi Torino è una città dove c'è un fermento artistico forte, no? A parte gli scherzi, anche etichette, cantautore, una città grande. Torino. E infatti, Roberta, ci vengo anch'io e ti faccio un costume. Brava. Dai, guarda, io ci sto. Tanto mi porto la valigia con i CT. Poi vediamo se Pasquini riesce anche a darci un cachet e poi e poi vi lucido anche le scarpe prima che andate sul palco. Meraviglioso, sì, perfetto, ti vedrai benissimo a lucidarci le scarpettine in ginocchio. Ma guarda che secondo me il lucida scarpe potrebbe essere una mia professione in quel di Torino. Ti presenti, no? Ti presenti come opere d'arte, io e Fedra, opere, tu ci analizzi, e tanto è il tuo lavoro. Io vi psicoanalizzo, no? Sì, certo. Psicoanalizzare gli artisti. Ci fai anche il ritratto, lucida scarpe e ritratto. Esatto. Vi faccio il ritratto con il lucida scarpe. Che diventerà la copertina dell'album dei live di Roberta Giallo. Addirittura. Esatto, perché no? Io sono brava a creare le connessioni, non sarà capito. Va bene. Comunque, un'altra connessione speciale è che oggi coincide, infatti ringrazio Roberta per aver trovato uno spazio anche per il caro vecchio Coxo, oggi coincide con l'uscita ufficiale del tuo album da solista. Sì, ragazzi, sono contentissima, finalmente dopo anni, secoli, peripezie, è uscito l'album, si è spezzato il karma, io ho un album fuori, si chiama L'oscurità di Guillaume. Ah, non si chiama Si vis pacem parabellum? No, quello è Zino. Ah, mi sono sbagliato. No, anche se guarda, questo disco ha un che di antico, ascoltate. Le parole sono importanti. Ecco. Non ho capito niente. È perché è partito il tuo Google Translate. Sì, mi è scappato. E dunque? No, diceva che questo pezzo, comunque, questo album ha un che di antico. È un album, sì, che si colloca fuori dal tempo, cioè anche come sonorità, a parte magari le due versioni che ho chiamato Radio Version con più beat, ma il disco in sé è un po' collocato fuori dal tempo. Ma sì, anche perché anche tu cominci ad avere una certa età, o mi sbaglio? Ma grazie, non per quello. No, Stefano, dobbiamo rigenerare la faccia al muro. Ma va bene. Ma non mi fai il caffone? Il caffone, adesso lo esageriamo. No, è che sono un po' alterato. però è vero, cioè non ho più 20 anni, cioè ormai quella soglia è stata superata, no? Quindi sono, come dire, maturata, e quindi tiro fuori un'opera matura, come appunto, dire, che però infatti io lo dico perché apprezzo moltissimo questa tua nuova maturità. E a proposito delle sonorità dell'album un po' antiche, di questa maturità, io direi che un altro regalo ancora bello, più bello, che potremmo fare ai nostri ascoltatori è di salutarci con In amore io muoio di frontale. Senza io, In amore io muoio di frontale. Lo sapevo, mentre lo dicevo, lo sapevo che lo dicevo, ho detto, mannaggia, speriamo che non se ne accorga. 56. Io ti abbasso l'iPad, guarda, veramente. 56esimo è God maturitatem. Ci vediamo martedì, Roberta. Io un bacione, Fedra. Anzi, grazie per l'altra volta. Noi, tu sai perché. Un bacione e ci vediamo il 24, poi ci aggiorniamo. Ciao Pastini, anche a te. Ciao Roberta Giallo. Bacioni. Ciao. Ciao, ciao, divertitevi, ragazzi. Ciao. Mi ridici Guillaume, come si pronuncia? Così. Innamoramento facile, il mio sguardo è così docile da lasciarsi accarezzare da ogni minima distrazione. Così ho l'innamoramento facile, non mi importa se raccolgo briciole, a me piace farmi fulminare. In amore muoio di frontale, ma ora sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprò portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto. E innamorarmi di te mi porta via da me, innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non so più. Facile, cresce con intensità invidiabile, ma sai questo mi fa stare male quando non la posso controllare. Ma sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprà portarmi via da questa realtà, la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto. E innamorarmi di te mi porta via da me, e innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Alle volte non mi sopporto, no, alle volte non mi sopporto, io proprio non mi sopporto, ed è quando non mi sopporto che io fugo da me per perdermi in te e scordarmi di me. Giffo sta dicendo cose irripetibili. Meglio che non si ripetano in questo momento, perché noi dobbiamo continuare con L'angolo della menzione. Ah, non avevamo finito? Eh no! E cosa manca? Però, ecco. Come cosa manca? Manca un pezzo enorme, importantissimo per la cultura e la teatrologia dell'Emilia Romagna, non solo. E adesso che mi sono messa a posto con i file, chi la legge? La leggo io. Leggila tu. Venerdì 27, quindi, no, vi scusiamo quelli che non ascoltano il Coxo, solo nel caso in cui alle ore 21 vadano a vedere Kinder, bambini, all'Enz Teatro. E infatti al via a Parma la stagione dei progetti 2017 di Lenz Fondazione. Il programma si apre con Kinder Bambini, drammaturgia contemporanea sulla tragedia dei bambini ebrei di Parma vittime dello sterminio nazista, in scena dal 27 al 29 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria. La stagione poi proseguirà fino a ottobre 2017 con debutti a soli, riprese e progetti speciali. E noi abbiamo in linea il nostro secondo ospite, la nostra seconda ospitessa telefonica, Maria Federica Maestri, che è il direttore artistico della Fondazione Lenz e del Festival Natura dei Teatri. Maria, sono qua. Ciao, benvenuta al Coxo. Ciao, grazie, buona serata a tutti. Beh, allora, innanzitutto io vorrei chiederti qualche informazione sullo spettacolo che apre questa stagione e poi anche sulla stagione stessa. Poi... Sì, intanto davvero grazie, perché è un'occasione speciale per due motivi. Uno storico importantissimo, quello di non tanto celebrare ma rendere vivo il Giorno della Memoria, ed è una memoria delicata e tragica, quella dei bambini che raccontiamo, ed è il racconto di sei bambini che durante gli anni del fascismo sono stati prima internati in un campo di concentramento a Parma, nella provincia di Parma, e poi purtroppo partiti per il viaggio finale non sono mai arrivati e quindi non sono sopravvissuti ai treni per Auschwitz. È una storia però molto intensa e delicata, perché a interpretarla, a far rivivere i bambini, sono appunto i nostri nove bambini che hanno un'età dai 6 ai 12 anni, e insieme a loro la nostra attrice Valentina Barbarini e Marco Cavellini. E la Valentina è la tra virgolette mamma dei bambini, che li accompagna attraverso questo viaggio appunto nella loro, in una seconda possibile vita, che è quella che noi rendiamo a loro come minimo, no? Quella del ricordo e della riviviscenza, però positiva, senza eliminare l'idea che siano stati appunto vittima dello sterminio, ma con la possibilità che l'arte ci dà di far tornare anche quelli che hanno perso tutto, e quindi è un giorno importante. Volevo chiederti una cosa, vedendo alcune delle foto di scena sì. che accompagnano i comunicati, volevo chiederti qualcosa sulla restituzione scenica, sull'allestimento, che mi sembra estremamente intenso. Sì, è una, intanto quasi tutti i nostri lavori nascono all'interno di Lenz Teatro, che è uno spazio di origine industriale che da molti anni è la sede del nostro lavoro e che ha mantenuto tutti i segni della vecchia fabbrica. Quindi lo spazio appunto del Kinder è nella sala Majakowski, viene restituito nella sua nudità, nella sua secchezza, ma con alcuni elementi forti. Il primo sono appunto queste piccole vasche da cui i bambini ritornano, no? Come dei piccoli loculi da cui però ritornano in vita, e questi nove lettini che si trasformano, lettini in ferro a castello, come tutti i bambini sognano, no? di vivere in un lettino a castello, ovviamente quello più alto di solito, certo, no? Certo, infatti sono solo in quello più alto, e con il loro appunto il loro movimento scenico anche dei lettini da appunto luoghi di felicità, di sogno, insomma di normale infanzia, diventano poi e si trasformano in luoghi di reclusione, poi nel grande treno su cui partono, e quindi c'è questa dimensione molto molto sintetica, molto sempre molto cruda e delicata insieme, perché per i bambini non doveva essere semplicemente una, no, un'interpretazione nello strazio che c'è, ma dovevano appunto trovare la dimensione della delicatezza, del gioco e della possibilità di stare come veri artisti in uno spazio scenico contemporaneo. Ti ringrazio per l'approfondimento e volevo chiederti anche qualche anticipazione sulla stagione. Sì, la stagione è molto lunga, molto impegnativa, ed è una stagione che sarà abitata appunto non solo nel nostro spazio di Via Pasubio a Parma, ma anche in spazi estremamente interessanti della città, perché o chiusi o riaperti esclusivamente per le nostre rappresentazioni. Quindi partiamo a gennaio, fino ad aprile siamo a Parma con molti appuntamenti, dalla Fiaba di Garcia Lorca e il nostro secondo appuntamento invece sulla resistenza, sul progetto dell'eugenetica, della repressione e la soppressione dei bambini con tare genetiche, ma anche appunto la lievità musicale del Romeo e Juliet. Fino ad arrivare al primo appuntamento in questo spazio straordinario, perché non mai aperto al pubblico, che è un edificio in realtà recente ma che possiamo già considerare una rovina, dove ambienteremo il nostro primo capitolo della Divina Commedia, che non è l'inferno ma il purgatorio, in questo teatro di dialetti. Quindi, e poi al Ponte Nord a ottobre con una commissione del Festival Verdi, dove rappresenteremo invece il Paradiso con 60 voci femminili, quindi insomma un grande evento. Quindi una stagione che andrà proprio ad espandersi in tutta la città e della quale, esatto, noi di Coxo Spaziale saremo ben felici di mantenerci in contatto con aggiornamenti. E anche noi felici di accogliervi e accogliere il vostro pubblico, i vostri ascoltatori. Meraviglioso, ti ringrazio tantissimo Maria Federica e buon lavoro, perché immagino ce ne sarà molto e, certo. E infatti eri in prova fino a poco fa. Un programma, sì, esatto, così pieno che mi ha lasciato senza parole. Beh, e continueremo ad approfondirlo mano a mano di qui a ottobre nelle varie tappe. Grazie ancora per essere stata con il Coxo, è stato un piacere. A voi. Ciao, buona serata. Ciao anche a te. No, dico, non potevo intervenire, era uno spettacolo più intenso dell'altro. Sì, ed ma effettivamente la cosa molto interessante della ricerca di Lens Teatro è questa capacità di restituire un allestimento estremamente sintetico. Adesso mi mancano le parole perché purtroppo non sono un critico teatrale, anzi mi piacerebbe anche invitarli qui per approfondire questa restituzione scenica, che credo che a te, artista concettuale contemporaneo, risuonerebbe molto. È uno di quei casi in cui le arti visive e quelle teatrali si incontrano, si ed effettivamente forse potremmo anche pensare a un Coxo Special di quelli vecchi che facevamo. Wow. Ti ricordi? Sì, certo. Ti ricordi che bello? Anche bello. Si sbrilluccicano gli occhietti. Sì. Oggi sì. Gennaro Iorio mi chiedeva appunto da quanto tempo era che facevamo Coxo Spaziale. Gli ho detto siamo alla 167esima puntata. E abbiamo saltato veramente poco. Forse con la prima vacanza abbiamo fatta quest'ultima estate. Sì. Mesetto di agosto. Ah sì, hai fatto visto un mese eravamo... di vacanza in agosto, perché in realtà io l'ho sempre fatto un mese di vacanza, ma tu no. Visto che eravamo sicuri che ormai ci lasciavano lo spazio, ho detto vabbè, andiamo in vacanza. Ah, perché era sempre vero, così. È vero, era per quello che no, non mollavamo mai. E viva l'autoreferenzialità. Esatto, a questo proposito. Come continuiamo in questo momento? Ah, ho comprato un vinile, ma è meraviglioso. Clicca giù. È un pezzo nuovissimo, è uscito nel 1989. E devi solo abbassare quello, ecco, e poi alzare. E abbassare la musica in sottofondo. Oh. Ma si sente mono. Ci sono un po' di problemi di cavi, no? Lascia stare. Magari lo togliamo. Lasciamolo di sottofondo. Ma che disco è? Parla anche il nostro ospite. È Tanita Tikaram. Bene, lasciamolo in sottofondo. Sì, però non possiamo ascoltarla con un... sì, mettila un po' in sottofondo così. Che allegria. No, dicevo anche tutti questi spettacoli su Auschwitz, sulla... No, ma in realtà voglio dire, capisco benissimo, però uno deve essere preparato psicologicamente andare a uno spettacolo del genere, o no? Ma in realtà credo che, come ci prepara il telegiornale, penso che sia quotidiana rimozione di tutti, cioè basta guardare, informarsi, seguire un radiogiornale o un telegiornale e siamo sempre di fronte all'albore di mostruosità del genere. No, fra l'altro, appunto, oggi è uno dei giorni più terrificanti della storia di questo secolo, hanno appena cominciato insediato Donald Trump, cioè Trump esatto, questi ciccioni che urlavano Trump tutti contentissimi, ciccioni, tutti ciccioni, e beh certo, sì. Tutti i ciccioni, perché poverini sono depressi perché non capiscono quello che li circonda. Io sono rimasta scioccata quando ha detto che tutte le questioni sull'ecologia sono bufale inventate, esatto, dalla sinistra. No, è fantastico. È terrificante, è veramente terrificante. Questi hanno superato tutti, cioè hanno superato chi. Sì, tutti gli Comunque, altri. Rispetto a quello che dicevi prima, ritornando alla mediazione teatrale che mi è più propria, effettivamente io sono molto curiosa di andare a vedere questo spettacolo. Sì, perché penso che la loro compagnia sia molto prossima alla mia sensibilità di spettatrice. Ah no, sì, ho immaginato, infatti, anche perché... Vieni anche tu? Sì, certo. Domenica prossima? Sono già a Parma. Allora. Ma invece noi, che siamo quasi giunti alla fine di questa puntata, abbiamo qualche altro contenuto? Abbiamo i 2 minuti di Lolli, cara mia. E li possiamo sentire non come sigla? No, infatti sentirlo come sigla, io sono completamente in disaccordo di questa cosa. Sì, sigla finale deve essere musica, non può essere... E allora perché la sigla... La sigla? La sigla finale, perché ho altra musica, per cui non ti devi preoccupare della sigla finale. Beh, io vado con i 2 minuti di Lolli, però vai, mi tocca... Puoi segare Tanitatica, ma anche perché sentito solo in una cassa è un po' fastidioso, devo anche dire. Anche sottofondo, sì. E invece sì, i 2 minuti di Lolli sono stereo. Sono sempre stereo e durano. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Questo dura 2 minuti e 1 secondo. Il mare è vita, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità, la vastità. Come possiamo vivere senza mare? Noi che andavamo a fumare in sala giochi nel seminterrato del Bar Pineta. Il nostro mare italico. Il nostro mare è l'Adriatico granitico ed il Tirreno anche un po' meno. Ottenere le agognate ferie per scaraventarsi sull'A14 ascoltando all'improvviso il duetto Fedez Gianna Nannini su Isoradio, che è poi così che succedono gli incidenti, maledicendo per l'eternità quelli che stanno in mezzo, poi stando in mezzo, poi essendo sfanalati dai tir che spostano bancali di tortellini industriali e pesti senza aglio attraverso le province della nostra bella Italia. E infine, mentre si tenta il sorpasso di un tir che tenta il sorpasso, essendo sfanalati da meravigliose Audi che per fanali hanno gli occhi del demonio, finché non ci si ferma tutti in coda nei pressi di Faenza, dandosi appuntamento all'altezza della puzza. Già finito? Già finito? Fra l'altro ho commesso un gravissimo errore redazionale, perché l'avevamo già trasmesso, adesso questa puntata deve essere il 41. Però col fatto che non c'era lo zino nuovo, dai, andiamo al pari, settimana prossima facciamo tutte e 2 nuove. Senti, io adesso ho una questione importante e anche un po' pruriginosa. Abbiamo 3 minuti. All'epoca della settimana scorsa, dopo la famosa puntata con Masotti, io sono stata iscritta nello stanzone. Sì. E tu sei andato via. Indovina perché? Non lo so. Tu lo sai chi ha creato lo stanzone? Masotti. Esatto. Se io chiedo agli amministratori di inserire tu e Masotti, questi cosa fanno? Quindi è proprio per quello che sei uscito? Non solo, per il modo in cui l'hanno fatto. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto non rispondendo alle mie domande. Io dopo 12 ore che non vi inserivano gli ho scritto: ma allora cosa fate? Dopodiché ho aspettato altre 12 ore e gli ho scritto: allora li inserite Masotti e Fedra o no? Anche io dopodiché, non dovevo essere iscritta. Dopodiché inseriscono Fedra e io riscrivo: ah, allora Masotti non lo prendete? E loro continuano ad ignorarmi. Ah, proprio senza neanche affrontare, esatto, la questione. Alla 36esima, quasi direi mellifluamente. Alla 36esima ora vedo dei post di una mediocrità esasperante, al che dico: ma sapete che? Ma vado, sto dalla parte, mi metto dalla parte di Masotti anch'io. Ma tu quante volte sei uscito dalla stanzone? Mai. Era la prima volta che no, uscì? No, in realtà la seconda. Ah, ecco. Sono uscito in un attimo di... Perché di, lì tutti, cioè tutti dicono... Di rischio di... Entra, esci, Masotti certo. Entra per poi riuscire, dicevano, beh, insomma, queste cose forse non è il caso che io le comunichi. E... Certo. E quindi questa... è il bello dello stanzone, che è un gruppo segreto di Facebook, per cui quello che viene raccontato sullo stanzone teoricamente rimane segreto su Facebook. Però dici qui quali sono le tue condizioni per il rientro? Le mie condizioni per il rientro, ma secondo me bisognerebbe, visto che è passato un po' di tempo e gli amministratori sono sempre gli stessi, tanto per non essere autoreferenziali, se io rientro, se e quando si deciderà di rifare le elezioni degli amministratori, perché secondo me è completamente al di fuori di quello che è stato lo spirito dello stanzone, non fa rientrare il loro creatore. È completamente... Ho capito, abbiamo registrato in esatto. chiusura di trasmissione le condizioni del Pasquini e quindi non ti interessa Enrico più se Culed, entra o non entra. Un vecchio Enrico Culed, un vecchio membro dello stanzone anche di una certa importanza, quando gli ho raccontato l'accaduto mi ha risposto: è come se quattro angioletti decidessero di non far rientrare Dio in paradiso. Sovversione. Il che può anche non avere i suoi pregi. Sono sicuro che secondo me Masotti l'apprezza. No, ha detto che è stato molto dispiaciuto di questa cosa. Oh, è tenerone. Vabbè, certo. Comunque, riguardo agli stanzonisti che dovessero essere in ascolto, chiedo scusa se non sono riuscita a graticolare di più Pasquini su questa cosa, ma il tempo è tiranno e il coxo è finito. E il tempo è denaro. È stato bello e ho pianto tanto. Pigio il primo bottone. Ci vediamo domani a Adria. Sì. Con alcuni di voi. Io e in vicolo Vinazzetti. Ah. E dopo questo basso. Forse partirà il giro. With a way I feel today, but this is the golden age, the golden age. Somewhere I failed, somewhere I lost you. Black cloud of crows and shiny things I can't remember. This is the golden age. This is the golden age. Flax. and light off of the dying wheat. Your wry whiskey mouth and your dandelion.